Prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas. Proseguiamo anche in questa puntata della rubrica in collaborazione con la Caritas gli approfondimenti relativi al tema casa. L'emergenza abitativa è infatti al centro del report Maestro Dove Abiti, il terzo report curato proprio dall'Osservatorio delle Povertà e delle Risorse di Caritas Padova. Settimana scorsa si è fatto un panorama, ritrovate la prima parte dell'intervista al direttore Don Luca Facco sul nostro sito bluradioveneto.it. Del tema abitativo si occupa anche un altro progetto che si chiama La strada verso casa. È un progetto che abbiamo mutuato da alcune esperienze internazionali, in particolare nato a New York, implementato in Europa a Lisbona. Adesso si è creato un network a livello italiano che si chiama proprio Housing First Italia, dove proprio in riferimento alla grave marginalità, dove eravamo abituati a dei servizi spot, o il dormitorio o le cucine o i servizi sanitari, ma tutti scollegati fra di loro, per cui il rischio di servizi frammentati e che lasciavano le persone in strada, ha un altro approccio, un'altra filosofia, dove al centro si mette la casa, per cui si dà la possibilità alla persona senza dimora grave, che ha più difficoltà, non solo il problema economico, ma anche problemi psichiatrici, problemi di dipendenza, di inserirla in una casa, per cui dare la sicurezza e attraverso un percorso di accompagnamento, di vicinanza, nel quotidiano del quotidiano, cioè ritornare a imparare a farsi la spesa, ritornare a imparare a aver cura del proprio e della propria casa, inserirsi all'interno di un contesto familiare e di buon vicinato, questo ha dimostrato, gli studi hanno dimostrato che l'80% delle persone escono dalla logica della strada, recuperano stima in loro stesse. Ecco che allora anche noi stiamo sperimentando questa esperienza con fatica, attraverso due appartamenti messi a disposizione dalla parrocchia del Carmine, un appartamento dalla parrocchia della Santissima Trinità e un appartamento di San Bellino. Per cui stiamo anche noi sperimentando questo approccio che speriamo possa diventare un dono da offrire poi anche alla nostra città. L'emergenza sulla casa, che differenze presenta tra la città Padova e il resto del territorio della diocesi che è meno città? Ecco, l'esperienza proprio dei centri di ascolto vicariale mette proprio in luce la possibilità di fare questo confronto di le problematiche abitative presenti nella provincia, diocesi, e le problematiche della città. Ovviamente in città il problema è molto più sentito, in particolare in città il problema casa si esplode, in particolare per quanto riguarda i senza dimora, cioè persone che, se nel territorio una persona vive nella zona grigia ma a un certo punto perde totalmente la casa, si sposta in città, perché in città ci sono più servizi, più opportunità, per cui in città si vede un aumento delle persone dentro la grave marginalità, cioè proprio senza nessuna opportunità. Per cui è chiaro che la città è chiamata ad offrire un accompagnamento anche diverso rispetto alla provincia. Ricordiamo che sul tema del disagio abitativo, oltre al report numero 3 appunto della Caritas Diocesana di Padova, c'è anche il rapporto 2015 a livello nazionale che si chiama Un difficile abitare. Ne trovate i riferimenti sul sito caritaspadova.it, sito che tra l'altro si è rinnovato con la parte grafica già da qualche settimana, e lì trovate anche poi il materiale relativo proprio al report dati 2015 sulla situazione del nostro territorio. A margine vi ricordo, l'abbiamo già fatto in altri spazi in questi giorni, la raccolta di cibo a favore delle distribuzioni alimentari della città è organizzata dal Museo Diocesano proprio in collaborazione con la Caritas. Fino a domenica è possibile partecipare donando prodotti non deperibili della propria spesa, quindi pasta, riso, olio, tonno, carne in scatola, pelati, legumi in scatola, farina, zucchero, sale, eccetera. La raccolta si svolge al Museo Diocesano nei giorni e negli orari di apertura, quindi dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 19. Ad ogni persona che porterà i prodotti acquistati sarà offerto un ingresso omaggio alla mostra di illustrazione A tavola, i colori del sacro, che è in corso fino al 26 di giugno. Dunque un'ulteriore occasione per sostenere le attività della Caritas, e anche magari, se non lo conoscete, per entrare nel Museo Diocesano e approfittare della visita a questa interessante mostra. Avete ascoltato Prossimo Tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas.